Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. È tale la quantità di notizie di giornata che non sarà facile oggi rispettare le nostre buone abitudini del lunedì, dedicato in gran parte ai vostri interventi, ma ci proveremo ugualmente, no, non senza aver prima segnalato almeno le principali. Beh, quello degli arresti legati alla vicenda scommessa ormai le sapete, grazie anche alla puntuale opera di informazione, come sempre, dei nostri giornali radio. In sintesi, ci sono 17 arresti legati all'inchiesta, di cui 5 calciatori, a cominciare da Cristiano Doni. Cristiano Doni è stato arrestato per il pericolo di inquinamento delle prove. Il calciatore, da quanto si è saputo, avrebbe pagato parte della parcella dell'avvocato di un altro indagato, e questa è una delle ragioni. Dalle indagini poi è emerso che Doni, in occasione di partite combinate dall'Atalanta la scorsa, o comunque con l'Atalanta, giocava nell'Atalanta la scorsa stagione, si avvaleva una scheda intestata a un romeno ritenuta sicura da eventuali intercettazioni. Avrebbe ipotizzato di alterare i dati di un iPhone di un altro indagato. E oltre a Doni, in carcere sono finiti gli ex calciatori Sartor, che ha giocato in Juventus, Parma, Vicenza, Inter e Roma, Zamperini, Serie B Lega Pro, Gervasoni del Piacenza, che attualmente è sospeso, e Carobbio dello Spezia. Questa operazione, dice il procuratore di Cremona, che ha portato appunto all'emissione di 17 ordini di custodia cautelare, non è un punto d'arrivo, ma è una base di partenza. E ha così spiegato concretamente il provvedimento. Per quanto riguarda i ruoli di tutte queste persone, non ci sono in realtà ulteriori episodi di combine rispetto a quelli contestati nel giugno scorso, quindi non ci sono sostanziali novità, ma si sono enormemente concretizzate le responsabilità di fronte anche a un pericoloso intervento di inquinamento delle prove. Non solo, ma il PM ha spiegato anche che ci sono ancora in atto manipolazioni di partite, tant'è vero che un tentativo è stato fatto per Cesena Gubbio di Coppa Italia, giocata lo scorso 30 novembre. In che modo? Qualche tempo prima dell'incontro, un giocatore del Gubbio era stato avvicinato dall'ex calciatore Zamperini, attenzione alle vocali, perché poi cambiandone una tra poco arriviamo all'altro personaggio di giornata. L'ex calciatore Zamperini aveva offerto 200.000 euro a questo giocatore del Gubbio perché con altri compagni manipolasse la partita. Il giocatore del Gubbio aveva opposto un immediato rifiuto e si era rivolto subito alla giustizia sportiva. Questa è la ragione per cui Zamperini è stato arrestato. Io aggiungerei anche una medaglietta per questo milite ignoto del Gubbio, di cui al momento non si fa il nome, perché credo che sarebbe ora anche di si potrebbe anche provare a battere questa strada, cioè non soltanto di indagare, di giudicare e di punire il più duramente possibile i comportamenti colpevoli, ma anche di cominciare a forse a premiare i comportamenti virtuosi. Una vicenda, da qualunque parte la si voglia vedere, veramente orribile, da cui si può provare a risollevarsi grazie al consueto contributo del cabarettista Zamparini, che ha appena esonerato il suo allenatore del Palermo, Mangia. Aveva provato Mangia con la gag del panettone sabato alla vigilia di Catania a Palermo, aveva provato a ironizzare sia sul suo nome, no? Sul suo cognome, che sul panettone. Non c'è stato niente da fare. Il Catania è stato fatale anche a lui. Mi segnala Franco Piantanida che c'è da parte di Zamparini evidentemente una sindrome precisa da derby, perché dopo il Catania-Palermo 4-0 del 2010-2011 era stato esonerato Cosmi, dopo un Palermo-Catania 1-1 dell'anno prima era stato esonerato Zenga, e poiché non c'è 2 senza 3, dopo il 2-0 di ieri è stato esonerato Mangia. Tra le tante possibili frasi che potremmo ripescare dal repertorio di Zamparini, io credo che ce ne sia una che abbiamo cercato di ripescare il file, non l'abbiamo ancora trovato, ma insomma arriverà a galla prima o poi, ma fidatevi. Disse un giorno a proposito di Mangia, ma stiamo parlando di 2 mesi fa, Mangia potrebbe diventare il nostro Wenger, no? Nel senso che arrivando dalla primavera che allenava prima di essere promosso alla prima squadra, dopo il licenziamento precedente, l'intenzione di Zamparini, e comunque ci fu questa frase, no? Diventerà il nostro Wenger, nel senso che sarà il nostro seminatore, quello che resterà con noi un numero per un lungo periodo. Infatti Wenger è al 15° anno sulla panchina dell'Arsenal, mentre Mangia, con quella persa ieri, ha disputato 15 partite sulla panchina del Palermo, e vedete voi se c'è eventualmente un minimo di differenza. Poi si arriva all'antivigilia alla vigilia immediata di due partite in programma domani, che sono tutte e due significative, perché la sera non sarà facile per il Milan sul campo del Cagliari. Ma nel tardo pomeriggio Siena-Fiorentina ha tutta l'aria, con la classifica che si sta formando, di una presfida salvezza, cosa che per la Fiorentina non sembra particolarmente lusinghiera, nonostante il trattamento di favore a cui ha avuto diritto nella partita interna con l'Atalanta, e che l'ha certamente salvata da una sconfitta che sarebbe stata psicologicamente assai più pesante. E poi ci sono altre notizie ancora di giornate, altre ne arriveranno ancora. Quella più negativa riguarda le condizioni di Lavezzi, che come sapete ieri sera è uscito nel corso della partita persa dal Napoli contro la Roma, e Lavezzi ne ha per 4-5 settimane almeno, perché ha avuto uno stiramento vero e proprio al retto femorale della coscia, e stasera probabilmente partirà già per l'Argentina per le vacanze, ma insomma se ne parla per verso fine gennaio, se ne parla io credo per il ritorno delle coppe più o meno. E poi ci sono i 10 squalificati in Serie A, ovviamente anticipati proprio perché c'è il turno infrasettimanale. Sicché Biondini del Cagliari, Carrozzieri del Lecce, Centurioni del Novara, Comotto del Cesena, Del Vecchio del Catania, Benatia dell'Udinese, Moretti del Genoa, Morrone e Paletta del Parma e Piniglia del Palermo. Prima del primo intervallo facciamo in tempo a sentire le ultime parole di Mangia da allenatore del Palermo. A me sembra che abbiamo avuto problemi i primi 10 minuti, dove abbiamo fatto un po' di errori, ma poi dopo la squadra secondo me ha manovrato molto, ha mosso anche bene palla, e poi abbiamo preso alla fine i gol, li ha presi su una punizione, un rigore. È indubbio che diciamo che arriviamo bene fino agli ultimi 30 metri, poi dopo c'è qualche problemino. Io devo essere valutato come allenatore, e io sono convinto che la squadra ha una sua identità e sta facendo le cose come si deve. L'importante è che io poi vado dentro lo spogliatoio, vedo i miei giocatori e loro hanno massima considerazione e rispetto della mia figura e del lavoro che stiamo facendo insieme. Quindi un allenatore, quando c'ha quello, secondo me c'ha tutto. Quasi tutto, no? Nel senso che ha questa stima, ammirazione, rispetto, considerazione, tutto quello che Mangia ha detto da parte dei suoi amministrati, ma non da parte del suo datore di lavoro. Ma è una storia vecchia con Zamparini. Che cosa ne pensa uno tra i tanti messaggi già arrivati del tuffo di Boateng? Non sarebbe da prova TV? Io penso che sia da memorizzazione arbitrale più che da prova TV. Penso che sia una punizione ancora più dura, e cioè che gli arbitri comincino a farsi delle casistiche su certi giocatori. Certo, il tuffo di Boateng, se non da prova televisiva, che non credo, è in ogni caso da memorizzare. E cioè gli arbitri dicono, quando vedono cadere questi furbetti in area, magari da qui in avanti ci pensano, e arriverà il giorno in cui per andar pari negheranno magari un rigore clamoroso, ma la colpa sarà di questo tuffo, del tuffo precedente. Scatenati oggi, mi pare, dai messaggi. Federico, carino, molto carino: Mangia esonerato, vado a scommettere 100 euro che Zamparini lo rimette in panchina prima della fine del campionato. Federico, potremmo fare a metà, veda che quota riesce a farsi dare, perché ho paura che non sia molto alta. Al Gubbio, se non sbaglio, lavora quel gentiluomo di Gigi Simoni, forse ha trasmesso questa sua onestà anche ai giocatori, scrive Giacomo. Sarebbe molto bello se fosse così. Cesare dice: potete rimettere Berlusconi in versione Guardiola? Beh, l'abbiamo già. Sì, era una promessa, così, perché oltretutto oggi con queste brutte notizie che arrivano, no? Dal fronte scommesse, dal fronte indagini, potrebbe essere un'idea. Allora, prima di quelle attualità, facciamo un passo indietro di pochissimi giorni, anche perché queste cose le ha ripetute anche ieri, anche l'altra sera. Dai, sentiamo. Quando facevo l'allenatore dilettante, con dei ragazzini che non facevano un passaggio più in là di 4 metri e che riuscivano a chiudere la partita con il 70% di tempo di possesso palla. Dunque, no, questo mi fa venire in mente il Barcellona di ieri, no? E questa fantastica lezione di calcio impartita al Santos. Ho letto sul Corriere della Sera, in un bel articolo firmato Federico Pistone, ho letto il commento dell'allenatore brasiliano e ve lo leggo perché insomma, mi pare molto significativo. Dice l'allenatore brasiliano Ramalho, del Brasile, del Santos, il Barcellona ha giocato con un 3-7-0, perché senza Sanchez e Villa hanno schierato un altro centrocampista, Thiago. Se lo facessimo in Brasile chiamerebbero la polizia. Stupenda questa espressione. Ma, continua e conclude, non è necessario mettere tre attaccanti per essere una squadra offensiva. Anzi, ora che abbiamo visto il Barcellona, cominceremo ad accettarlo. Questa mi sembra una lezione appresa, no? da un tecnico brasiliano, dove c'è per l'appunto, come avete appena sentito, magari anche ad altre latitudini, il culto dei numeri di attaccanti da schierare come se quello fosse il parametro per valutare un gioco offensivo o meno. E quella frase è stupenda: se facessimo un 3-7-0 in Brasile chiamerebbero la polizia. Carlo vuole intervenire a Padova, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buon pomeriggio. Io volevo intervenire unicamente in riferimento alla figura del giocatore Sartor, il quale da lei è stato citato come giocatore della Juventus, del Parma, del Vicenza. Allora io dico che l'accostamento del nome della figura di Sartor, che per me, anche se ancora non è stato condannato, è un criminale sportivo, accostato in primo luogo, in prima battuta, al nome della Juventus, dico che è un po' una forzatura, nonché un'insinuazione indebita, perché Sartor nell'immaginario collettivo è in primo luogo un giocatore del Vicenza e poi un giocatore del Parma, di quel grande Parma popolato di grandi giocatori come Cannavaro, Thuram, Buffon e via discorrendo. Lei che ne dice? Grazie, arrivederci. Carlo, io dico che ho preso la scheda di Sartor e ho letto tutte le società in cui Sartor ha militato, dopodiché non avendo mai avuto problemi di questo genere nelle società in cui ha giocato, dal Vicenza fino all'ultima, che mi sembra sia stata la Roma, è evidentemente i suoi reati attengono a quest'ultimo periodo, a quello in cui per il quale è indagato. Insomma, io credo che insomma di caccia alle streghe ne possano bastare, no? Poi al massimo posso sentire Della Valle che chiedere un tavolo a mia volta, ma io sinceramente non ho fatto altro che citare le squadre in cui Sartor ha giocato e niente più. La Cremonese, scrive Giancarlo, ha denunciato un messaggio carino, ha denunciato e non si è preso una medaglia ma un meno 6. Io credo che la Cremonese sia proprio una di quelle società a cui non è andata bene, ma è andata strabene, perché la Cremonese ha denunciato, ma se non ricordo male la vicenda, ha denunciato con qualche mese di ritardo, no? E dopo avere 6 o 8 mesi di ritardo, e dopo aver naturalmente venduto il portiere che aveva, secondo loro e secondo la denuncia, drogato i suoi stessi compagni di squadra. Cioè prima ha rifilato la sola al Benevento, mi pare di ricordare. E poi, a distanza di alcuni mesi, quando ormai il tappo stava per saltare, ha correttamente denunciato all'ufficio indagini. Ricordo altri esempi di più virtuosi di comportamenti nei confronti della giustizia sportiva. Gianni ha chiamato la provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno, dica. Io ho un intervento per quanto riguarda Del Piero. Faccio una premessa: io quanto gioca lui la partita non la guardo, perché ritengo questo giocatore responsabile di alcune situazioni che sono verificate negli ultimi 4 anni. Credo che lui della Juventus proprio non ne frega nulla, pensa solo agli affari suoi, pensa solo ai suoi interessi. Spero che con questo non danneggiamo un giocatore come Madre, che per me è molto importante negli ultimi 4 metri, e che non lo tiene mai insieme a lui, perché invaderebbe l'area in due, non più uno solo. E questo è un messaggio ai nostalgici tifosi juventini, che lo sostengono, continuano a sostenerlo, e che negli anni precedenti ad alcuni allenatori per colpa sua ha dovuto lasciare la squadra. Agnelli ha dato una grossa mano. Va bene. Va bene Gianni, non si dica poi che non diamo spazio alle minoranze, perché credo che questo intervento suo sia proprio nel solco, lasciato concludere sino appunto alla fine, sia proprio un esemplificativo, no, della tutela delle minoranze e dei pareri nettamente minoritari per l'appunto. E prima degli altri ascoltatori, volevo sentire... come minimo Cosmi, perché insomma, ci sono state almeno due partite ieri in cui la squadra ospite, e sto parlando di Lecce e Bologna, avrebbe non meritato ma strameritato di vincere, e invece è andata benissimo al Parma e soprattutto al Genoa, perché il Parma è riuscito a pareggiare in maniera molto avventurosa nel finale e il Genoa addirittura a vincere. E quindi volevo sentire la rabbia di Cosmi dopo questa ennesima eccellente prova del Lecce, vanificata poi nel finale. Ricordo che il Lecce quest'anno era arrivato sul 3-0 addirittura contro il Milan, per poi perdere 4-3, ma ieri un 3-1 a 4 minuti dalla fine, spadroneggiando davvero sul Prato del Tardini, sembrava la volta buona. Sentiamo Cosmi. No, io credo che ovviamente ha fatto imbestialire me, ma spero anche i giocatori, perché fare una partita, soprattutto un secondo tempo come questo, meritando, perché i tre gol non li abbiamo trovati, ma li abbiamo strameritato giocando a calcio, giocando i 5 minuti successivi dopo il 3-1 con grande padronanza, disinvoltura, e poi compromettere solo, ripeto, solo ed esclusivamente per nostri demeriti, questo è un peccato. Se un allenatore pareggia questa partita e non si arrabbia, non me ne voglia nessuno dei miei colleghi, non può fare questo mestiere, insomma. Quindi l'arrabbiatura è il minimo. Fortunato sono andato in campo, perché in campo c'era solo il direttore, quindi se fosse entrato in un ambiente chiuso ovviamente l'avrei preso con tutto quello che avevo vicino. Sartor, scrive Federico D'Alessandria, che è non solo un affezionato ascoltatore ma che è anche uno storico juventino, scrive: Sartor fu acquistato come giovane promessa a 15 anni, se non sbaglio, per una grossa cifra dal nostro grande presidente Boniperti. Abbia pazienza, ovviamente indirizzato a me, che mi sono limitato appunto a ricordare come Sartor, se parliamo di grandi squadre, abbia debuttato nella Juventus. Che poi un quindicenne già si vendesse le partite, sinceramente mi sembrava abbastanza improbabile, ma ha ragione qualcun altro, che proprio Gregorio da Catanzaro, che scrive: il lunedì ci vorrebbe l'antidoping anche per qualche ascoltatore. Domenico dalla provincia della Spezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Premetto che chiaramente Mangia non c'entra niente in questo, però anche perché ha allenato le giovanili, no? Quindi è stato catapultato in una realtà differente. Però dopo aver sentito e dopo aver visto soprattutto la partita, dopo aver sentito la sua dichiarazione di Mangia, cioè che la squadra manovra, che la squadra, francamente, cioè se quello è manovrare, sinceramente, che vengano esonerati, io non ci trovo nulla di male, perché se il Catania avesse la consapevolezza, parlo del Catania perché l'ho vista ieri, delle squadre più consapevoli della propria forza, perdevano 5-0, perché francamente se c'era una squadra che manovrava la squadra era il Catania. Il Palermo no, era un'individualità assoluta da tutte le parti, di conseguenza, cioè, dove arrivavano, è chiaro che non arrivano fino alla porta degli altri. No, d'accordo, ma questo secondo lei integra un esonero? No, lui no. Non c'entra niente, io sto parlando, cioè, sto parlando in generale, però sì, se sì. Questo è dire la squadra mi segue e questo è farsi seguire dalla squadra, francamente io non lo vedo, la mano dell'allenatore non c'è. Si è vista in altre circostanze, io non voglio né difendere né accusare nessuno, dico soltanto che il problema del Palermo in trasferta è abbastanza annoso, lui aveva risolto il problema del Palermo in casa. Scusa. D'accordo, Domenico. L'ho visto giocare anche col Cesena in casa, mi ha fatto la stessa impressione di ieri, francamente. Sì, sì, non era certamente una fase positiva questa per sì, il Palermo, sì, sì, non carità, si discute. Ma c'è di buono che a Palermo però, se anche le cose non vanno benissimo, ti danno fiducia e poi in maniera che tu ti possa riprendere. Grazie. Prima di un altro ascoltatore, volevo... visto che Franco Piantanida ogni giorno, ma in particolare ogni lunedì, mi fornisce dei numeri interessanti. Beh, insomma, intanto il 19 dicembre porta fortuna a Quagliarella, perché va bene, ieri era al 18, ma non segnava in Serie A dal 19 dicembre del 2010, 1-1 sul campo del Chievo. Poi ebbe questo lunghissimo infortunio ed ecco perché buona parte del lungo digiuno. Non succedeva alla Juve di rimanere imbattuta nelle prime 15 giornate, addirittura dal 49-50, quando in panchina c'era Jesse Carver, che in Italia ne erano 7 squadre, e proprio quell'anno riportò lo scudetto a Torino, scrive Franco, alla Juventus, perché a Torino nel frattempo una squadra che era caduta pochi mesi prima a Superga, qualche scudetto l'aveva vinto. I rossoneri, il Milan chiude un anno da imbattuto in casa, ultima sconfitta il 18 dicembre 2010 con la Roma, un gol di Borriello, il record di Nocelino, che aveva segnato 6 gol in una stagione in B a Piacenza, ma in Serie A 6 li aveva segnati in totale in 139 partite con Messina, Juventus e Palermo. Velocemente, Franco, provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo chiederle una precisazione riguardo, so che è un argomento che per lei non è molto positivo, comunque il famoso tavolo della pace. Io ho letto, riferendomi al discorso ormai di qualche anno fa, del Marsiglia, che era stato condannato alla retrocessione in Serie B una volta che era stata emanata la sentenza del Tribunale Civile, in quanto il tribunale sportivo non era sufficiente, per quanto riguarda appunto la sentenza medesima, per dare un giudizio definitivo. La mia è una domanda molto semplice, ma non è valevole la stessa considerazione anche qui in Italia? No? Evidentemente no, in Francia è legittimo zuccherare il vino, in Italia no. No, vede che questa è una precisazione dell'UEFA, cioè l'UEFA vale anche per l'Italia, quindi... Mi spiace, ma visto che le regole valgono in campo economico, in campo politico in parte, devono valere anche in campo sportivo. Questo evidentemente lo dice lei, andrebbe detto all'UEFA, non ha giurisdizione sui singoli campionati e sui tempi e i modi della giustizia sportiva. Fermo restando che qualcuno, a cominciare dalla Valle, secondo me, si è un po' dimenticato com'è stata l'estate del 2006. Se nel 2006... anziché affidarsi alla giustizia sportiva, che può anche non essere stata perfetta, ma aveva evidentemente dei tempi da rispettare, se nel 2006 si fosse proceduti in base alla giustizia ordinaria, staremmo ancora aspettando 5 anni dopo di ricominciare a giocare un campionato di Serie A, così a occhio. Pare abbia ottenuto un grande successo questa carriera di Sartor. Allora, in dettaglio, arriva alla Juventus nel 92, lui è del gennaio del 75, quindi in realtà di anni aveva 17, gioca una sola partita in quella prima stagione, segnando tra l'altro un Fiorentina-Juve, segnando un autogol che diventa decisivo per il risultato. Poi va in prestito alla Reggiana, torna alla Juventus nel 94 e da lì Vicenza, Inter, Parma, Roma, Ancona, Roma, Genoa, Roma, Sopron, Verona e Ternana. Non solo, ma gioca anche in nazionale, sia in Under 17, perché era veramente una grande promessa all'epoca questo difensore, Under 17, 18, 21, Italia Olimpica, Under 23, gioca 2 partite addirittura nella nazionale maggiore. Questo per dire che è ancora più triste, no? Vedere che un giocatore che ha avuto comunque una carriera del genere, anche se certamente non ha mantenuto le promesse iniziali, è ancora più triste vedere che fine ha fatto, davvero, davvero molto avvilente. Proviamo a vedere se riusciamo a salire un tantino, no? di livello, nel senso di andare verso un calcio più divertente, più spettacolare e che ritrova dei protagonisti, per esempio Quagliarella. Digiuno era, mi piace sottolinearla sta cosa, perché il digiuno era dovuto al fatto che giocavo poco e niente, quindi era quasi impossibile poter fare gol dalla panchina, quindi però niente, ho aspettato con calma, anche se non è facile stare fuori, quello sicuramente, da settembre ad adesso sono state tutte scelte tecniche, quindi che ho accettato con la massima tranquillità e professionalità. quindi si sapeva che in un gruppo con giocatori importanti ci sta di, a volte di giocare, a volte di non giocare, quindi, però poi le chiacchiere stanno a zero quando sei chiamato in campo e a dare delle risposte. Statisticamente per la prima volta in questa stagione l'Inter è in zona Europa, perché il quinto posto le varrebbe l'Europa League, e tra l'altro in Nerazzurri ha gli stessi punti di un anno fa. Dopo la sconfitta con la Juve l'Inter ha vinto 5 partite su 6 con tutti i marcatori diversi tranne Nagatomo. Da quando è tornato in Napoli, cioè dal 2007, la Roma ha vinto 3 volte a San Paolo su 5 partite, quindi tradizione nettamente favorevole. Quanto al Napoli, è la squadra che più ha peggiorato il rendimento rispetto a una stagione fa, perché ha 6 punti in meno dello scorso anno, e questa indubbiamente è frutto, no? È causa di questa, della durezza di quel girone di Champions che Napoli ha così brillantemente superato. Angelo dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Voglio sottoporre un indovinello, ma è facile, non si spaventi. Sì. Cosa ne pensa di un allenatore che tutte le domeniche manda in campo 2 attaccanti completamente fuori forma? Grazie. No. Detto così, questo allenatore lo affidi a Zamparini. Non avendo elementi in più, l'unica cosa che le posso dire è prenda questo allenatore, lo affidi alle cure di Zamparini e vedrà che avrà quello che si merita. Alberto, Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Ganazzini. Dica. Grazie per la chiamata. Richiamata, volevo semplicemente chiederle questo: come mai il Milan si vuole a tutti i costi orientare su un colpo ad effetto come potrebbe essere Tevez e non pensa a un centrocampo in via di pensionamento? Non ho idea, però tanto pensionati Nocerino, Aquilani, Boateng non mi sembrano, no, poi che ci sia qualcuno un po' più avanti con gli anni, questo è anche vero, però quelli che stanno giocando adesso, sì, c'è Seedorf, però insomma, nonostante l'anagrafe, mi sembra che qualche colpetto ancora sia in grado di darlo, dopodiché le strategie non le conosco. Sa che ha sentito prima i dogmi, no? Due attaccanti, gioco corto, modello Barcellona, come già ai tempi aziendale, io non, sinceramente non mi permetto. Antonello Salerno, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo chiederle, ma che fine ha fatto? Non si parla più di fair play finanziario? Cioè, si parla sempre di mercato, di acquisti, di campioni che devono arrivare. Ma Platini non aveva detto che le società si dovevano adeguare? Certo, esistono delle scadenze molto, molto precise in teoria, poi bisogna vedere se queste scadenze verranno rispettate. Sa, un conto è avere delle idee, delle intenzioni buone, io penso anche ottime, e poi un conto è... E invece doversi confrontare con una realtà, perché in fondo non è che poi Platini, no, o l'UEFA può mandare delle truppe, no, comunitarie a far rispettare i bilanci. E bisogna intendersi, bisogna vedere. Qualche perplessità comincia a nascere sui tempi di attuazione, in effetti, anche se per altri versi ci sono invece delle conferme. Luis Enrique, beh, insomma, una bella rivincita per lui questa vittoria di ieri sera, anche se va detto che alla Roma tutto è girato bene. Ma proviamo a sentire lo spagnolo. La partita potrebbe avere finito 5-5 e non succedeva nessuna cosa, o 5-4 per il Napoli, e sarebbe un casino incredibile per me. E in cambio ha fatto 1-3 e sembra che è stata meravigliosa. No, mi piace tantissimo la squadra e come è andata a fare la sua proposta qui a Napoli, che sappiamo tutti l'atmosfera che c'è in questo stadio, e quello è una della cosa che mi piace in più. Ma dopo ci sono molte cose che dobbiamo migliorare, imparare, lavorare, come sempre. Mai finisce il lavoro dell'allenatore, perché sempre pensiamo o penso che ci sono tante cose a migliorare. mai finisce il lavoro dell'allenatore, e questa è una frase sacrosanta, detta tra l'altro da uno straniero che sta, insomma, facendo progressi abbastanza evidenti, mi pare, anche con la lingua italiana. Non finisce mai nemmeno l'opera di vigilanza costruttiva da parte dei presidenti. Lo sapevo io che Franco Piantanini avrebbe tirato fuori questo file, l'avrebbe trovato. Sentite un po', 12 settembre, il presidente Zamparini. Ho incaricato già il mio direttore sportivo Soviano di farlo diventare il nostro allenatore fisso, oltre che per i 2 anni che ha di contratto, per altri 2. E io spero con lui di cominciare un nuovo ciclo, tipo spero che il Palermo diventi l'Arsenal del calcio italiano. Io penso che lui possa fare quello che ha fatto Van Gaal dell'Arsenal, e me lo auguro. Io gli sarò vicino per fare questo, insieme con Soriano, che è un ottimo direttore giovane. Ma che leggenda, questa è un'altra da mandare a tormentone, per la settimana, mandarla per un anno, un anno di fila, calcolando anche che stiamo parlando del 12 settembre. E Zamparini dice all'inizio, ho già mandato a Soliano, che nel frattempo non c'è più, ma non c'è più da parecchio tempo, perché insomma non è che se lo durano gli allenatori possono durare i dirigenti, no? Con Zamparini, fantastico. Il mandato di Wenger, il 2 più 2, eccetera, eccetera. 12 settembre, 19 dicembre, sono 3 mesi, ripeto, 15 partite di Mangia contro i 15 anni di Wenger, un mito. Matteo Pesaro, buongiorno. Sì, salve, ascolti, volevo solamente fare una puntualizzazione rispetto alla statistica che ha dato prima sul Napoli. Sì. Mi chiedevo, ma lei dice probabilmente il Napoli ha sofferto un po' il fatto che ha fatto la Champions League, e quindi ha acquisito in campionato meno punti dell'anno scorso, ma è anche vero che, se lei va a vedere, è un ottimo giocatore Cavani, però quest'anno credo che abbia segnato molto molto poco, forse la metà dell'anno scorso nella prima fase della stagione. Sì, sì, quindi certo. Probabilmente potrebbe essere anche stata quella un po', magari una super stagione iniziale di Cavani dell'anno scorso, che nessuno se l'aspettava, probabilmente, e magari quest'anno è più, diciamo, a livello di quel buon giocatore che era, magari l'anno scorso sembrava un extraterrestre, quindi non so, forse anche sì, ma meno gol di Doni indubbiamente decisivi, quindi questo decisivi, questo altro, incide, esatto, in maniera determinante sul fatturato, però è anche vero che globalmente la fatica della Champions e insieme anche un calo di alcuni titolari, perché in compenso rispetto all'anno scorso la rosa è assai più ricca, ci sono dei titolari di qualità diversi, a cominciare da Ingler, e c'è qualche buon ricambio in più, ma evidentemente la Champions è costata troppo. Questa perlomeno è una prima analisi frettolosa, poi magari possono esserne fatte anche di altre. Dunque, però Cavani un anno fa aveva segnato 9 gol, quest'anno ne ha segnati 7 in campionato, perché la vera esplosione di Cavani era stata poi, se non ricordo male, nella seconda parte del campionato. Quindi sì, manca qualcosina alla parte di Cavani, certamente, anche perché nel frattempo aveva abituato troppo bene i napoletani, ma insomma, manca qualcosa in generale, manca qualcosa che in difesa, perlomeno a giudicare dalla partita di ieri sera. Sentiamo Nicola Filippone cosa ci racconta del 19 dicembre. Sembra ieri. 19 dicembre 1993, quando a San Siro il portiere del Milan Sebastiano Rossi raccoglie dalla rete il pallone con cui Matteo Villa del Cagliari ha accorciato le distanze sul 2-1, difficilmente immagina che sta per iniziare il nuovo record di imbattibilità della Serie A. La formazione allenata da Fabio Capello, saldamente al vertice del campionato, non subirà infatti gol per 929 minuti, fino a Milan-Foggia del 27 febbraio 1994, quando il russo Kolivanov accorcerà le distanze per i pugliesi siglando il 2-1 finale. Il record precedente apparteneva a Dino Zoff, che nella stagione 72-73 tenne inviolata la porta della Juve per 909 minuti. Molto carina come sempre questa curiosità pescata in archivio da Nicola Filippone. Pierpaolo ha chiamato da Novara, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Volevo chiederle una sua opinione sulla squadra del Novara, anzi due opinioni. La prima inerente alla politica della proprietà, quella di appunto affrontare un campionato da neopromossa con sostanzialmente i mezzi, spendendo solo i soldi che si è sicuro di avere a disposizione. E la seconda è se, stante la classifica, stante le difficoltà, stante tutto quanto, se un acquisto per reparto, poi sì, fantastica di Inzaghi in attacco, piuttosto che di nomi anche più o meno altisonanti, se un acquisto per reparto può dare speranza da qui alla fine del campionato di salvarsi. Ecco. Non lo so, sinceramente non lo so. Io trovo molto saggio che il Novara, a differenza di altre neopromosse, non abbia perso la testa, e cioè abbia deciso di fare con quello che c'è in, cioè non con quello che c'è in casa nel senso di giocatori, ma con quello che c'è in casa nel senso di risorse, e quindi di non rovinarsi il futuro pur di restare ad ogni costo in A. Se poi a gennaio ci sarà qualche operazione, spero, non, mi auguro che non sia di segno contrario, cioè che non vada a intaccare le casse sociali, insomma che non vada a intaccare i parametri di bilancio sin qui così responsabilmente rispettati, a differenza di tanti altri. Dopodiché, sa, uno per reparto dipende sempre, se per esempio quello davanti fosse Messi, allora magari uno può anche rinunciare a un rinforzo degli altri due reparti, no? È difficile dire queste cose. Certo, il Novara sapeva da prima di cominciare il campionato che sarebbe stata dura salvarsi, e credo che ne abbia avuto la conferma in questa prima fase della stagione. Sentite questa mail che arriva da Rimini ed è firmata Roberto. Cesena Inter di ieri costava 35 euro più 2 di prevendita il biglietto intero e 20 euro più 2 di prevendita per il ridotto 0-14 anni per un settore ospiti di curva. Mi chiamo Roberto, scrivo da Rimini, e a mia figlia Giulia di 6 anni, che mi aveva implorato di portarla per la prima volta a vedere l'Inter allo stadio, e se non la porto a Cesena allora quando mai la porto, ho dovuto rispondere che 60 euro più benzina e autostrada per andare in curva, coi rischi che comunque si corrono in quel settore, in un momento come questo, dove tramuto e rette dell'asilo e scuola fatichiamo ad arrivare a fine mese, non potevamo permettercelo. Invece con 8 euro abbiamo comprato la partita, nel senso non di doni, nel senso evidentemente della Pay TV, l'abbiamo vista a casa, e con altri 8 l'ho poi potuta portare al caldo del cinema a vedere L'era Natale. La mia domanda è: ma i signorotti del calcio in quale paese vivono? Il calcio è sempre stato uno sport popolare e non può diventare un lusso per pochi, anche perché sarebbe la sua fine. Non si lamentano poi se devono mettere i teloni col pubblico finto per riempire i vuoti sulle tribune. Grazie e auguri buon Natale, Roberto da Rimini. Ruggero ha chiamato da Piacenza, buongiorno. Buongiorno, bravo Roberto. Sì, Io le auguro buone feste a lei e famiglia. Grazie. Volevo soltanto a riguardo la verginità della Cremonese portare così un piccolo pensiero. La Cremonese, la sola, l'ha data anche al Piacenza, perché ha dato in prestito Gervasoni al Piacenza, che è uno degli arrestati di stamattina, che è uno degli arrestati. Ma le dirò di più, è un bel ambientino la Cremonese, l'impressione. Le dirò di più, che questo imbecille si è bevuto la bevanda drogata e poi ha preso la macchina e ha avuto un incidente. Da lì è nata tutta quanta la faccenda, perché poi i carabinieri hanno denunciato la cosa alla procura ed è scoppiato il bubbone. Però la Cremonese sapeva tutto, e tutto questo ha innescato un domino che domani porterà il tribunale fallimentare di Piacenza a decidere se Piacenza fallisce oppure no. Quindi grazie Cremonese. Sì, c'è una rivalità acerrima tra queste due tifoserie, quindi io potrei anche prendere, oppure raccomandare agli ascoltatori di prendere con un minimo di beneficio di inventario la sua versione, ma in realtà a me, per quel poco che ne so, mi pare che la sua versione sia quella corretta proprio. Francesco ha chiamato da Treviso, buongiorno. Buongiorno, dica. Io volevo intervenire sul Napoli. Tutti quanti continuano a ripetere che la classifica del Napoli è frutto della Champions League, ma sinceramente non capisco neanche perché l'ultima partita in Champions, il Napoli, quando l'ha giocato 2 settimane fa, capire la partita prima, posso capire la partita dopo, c'è un dispendio fisico, se viene giocata la partita di campionato dopo, se è un dispendio mentale, se è prima, ma adesso cosa... La partita di ieri è nata male, non mi piace parlare di sfortuna, ma insomma non ha giocato neanche malissimo, poteva finire diversamente, ma insomma, comunque è diverso, il calcio è fatto di cicli, soprattutto se parliamo di preparazione, no? No, non solo della partita, ma di un periodo, cicli proprio di lavoro atletico e psicofisico e tutto quello che vogliamo. Non c'è dubbio che il Napoli sia quello delle società italiane finora che ha avuto, in questo periodo, che ha avuto l'autunno più logorante, perché non mi pare che né i gironi del Milan né i gironi del Barcellona fossero così impegnativi come quelli del Barcellona, né del Milan né dell'Inter fossero così usuranti. Semmai lo era in parte quello dell'Udinese, anche se non valeva certamente il girone del Napoli. È abbastanza normale che alla fine di quel ciclo ci sia bisogno di riposo e poi di ricarica di pile per gli impegni successivi. Non mi pare che sia un alibi questo del girone di ferro della Coppa, mi pare che sia un dato di fatto. Sentirei ancora Gerry, che ha chiamato da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Parlando di biglietti molto cari, io, dato che il 15 gennaio compio 50 anni, volevo portare i miei figli, sono tre milanisti, uno interista, io sono interista, a vedere il derby a San Siro. Ho chiesto un po' in giro per comprare i biglietti, mi sono rivolto alla banca che vende i biglietti e mi ha detto che l'unico modo per acquistare i biglietti del derby era di acquistare un pacchetto di tre partite per la modica cifra di 110 euro ciascuno, altrimenti i biglietti singoli per il derby non si possono comprare. Ecco, mi sembra una forzatura un po' illecita e non giusta. Mi pare però che le modalità di vendita dei singoli biglietti per i big match, in caso di eventuali disponibilità residue, vengano comunicate successivamente alla conclusione dei periodi di vendita dei pacchetti gare, e quindi non so se l'hanno informata correttamente o insomma se c'è stato comunque. Questa mi risulta, o meglio risulta Franco Piantanita, che è la mia vestale in questi casi, risulta da quanto pubblica il sito del Milan, che credo fornirà indicazioni corrette, almeno me l'auguro. Sicché lei dovrebbe aspettare dopo il 30 dicembre, mi informa ancora, per vedere se è possibile, e se no farà come il nostro amico Roberto di Rimini, no? Che con 8 euro si è accontentato di vederla alla TV, ma ha avanzato qualcosa per poi portare la bimba anche al cinema. Io trovo ridicolo che la Cremonese denunci il fatto e poi si trovi 6 punti di penalità. Cosa ne dice lei? Scrive Gio da Cremona. Io dico che alla Cremonese è andata molto bene. Non le dico quanto bene è andata all'Atalanta se parliamo di società e di responsabilità oggettive. Nel calcio di una volta le cose andavano a finire, che era più severo, giustamente, le cose andavano a finire molto, ma molto, ma molto diversamente. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.